Piacere, Italia mi piace molto a mí. Es verdad, oye, qué cosa, oye, Italia, la palabra Italia, enseguida ya noto una, se instala una sonrisa dentro de mí y que debe salir por los ojos, de verdad, enseguida, y solamente cuando, hasta cuando lo pienso, Italia me hace pum, pum, estar contento, sí. Te voy a cantar una canción de los emigrantes italianos, ¿eh? ¿Vale? Cuando l'alber comincia a fiorire, la primavera está per partire. Amante mío, tú me lasci sola. Amante mío, tú me lasci sola. Quando sarai via nell'America, tu sposerai un'americana, non penserai più di me italiana, non penserai più di me italiana. E maledetta ne sia la macchina, il macchinista e la ferrovia, che mi ha rubato l'amante mio, che mi ha rubato l'amante mio. E maledetta ne sia la macchina, il macchinista e la ferrovia, che mi ha rubato l'amante mio, e chissà mai se ritornerà.